Smart Mobility, pillole di ecomobilità intelligente. Buon pomeriggio a tutti, eccoci tornati con le nostre meravigliose pillole di ecomobilità. Sono qui con Federico Angeli di Gringo per l'appunto e io sono Irene Papotti di Radio Città Fujiko. Ciao Federico. Ciao Irene, ciao a tutti. Siamo tornati, siamo mancati per un po', ma eccoci qua. Pensavate di esservi liberati di noi, ma noi siamo ancora qui, resilienti. Assolutamente. Allora, tema caldo. Lo dicevamo a microfoni spenti, è stata appena emanata una legislazione per la città di Bologna nello specifico che riguarda soprattutto te Federico e la tua attività, che è un po' quella delle limitazioni di velocità all'interno del centro storico. Il sindaco Lepore, per chi non lo sapesse, ha decretato, poi correggimi se sbaglio, che in determinate zone abbastanza estese peraltro della città metropolitana di Bologna, il limite per i ciclomotori e per i mezzi in generale verrà ridotto a 30 km all'ora. Corretto, dal primo di ottobre. Esatto, dal primo di ottobre. Io volevo sapere un po', diciamo, il punto di vista di chi lavora in questo settore, di chi si occupa di mobilità, che cosa porta questo cambiamento. Allora, sicuramente il tema è molto caldo, come le temperature esterne di oggi, però insomma, in linea di massima sicuramente sarà una rivoluzione epocale cui i bolognesi, volenti o nolenti, si dovranno abituare, dovranno imparare a convivere con questa cosa. Dal mio punto di vista ritengo che, ovviamente non entro nel merito insomma, se la scelta è giusta o sbagliata, non dipende da me. Io quello che posso suggerire, come ha detto ai lavori, è che sicuramente una mobilità, prendiamo ad esempio i viali di circonvallazione, per fare un esempio che tutti i bolognesi conoscono, una mobilità sui viali con un circuito a tre corsie, pianto semaforico ovviamente che spesso non è, ovviamente limitarsi a 30 km orari sicuramente creerà non poco disagio da un punto di vista psicologico, secondo me. Certo, perché ne discutevamo anche prima. Sì. Perché sicuramente tu avrai un pensiero in più, che sarà quello di stare attento, no, al contachilometri, cosa che invece prima, bene o male, insomma, non sapevi, che non avevi questa gogna sul collo, per cui potevi anche rilassarti un attimo di più. Molti motori, soprattutto le motorizzazioni a gasolio, quindi quelle che saranno insomma più penalizzate, no? Anche questo decreto è stato anche fatto in parte per disincentivare l'accesso al centro storico ad alcune tipologie di carburante, tipo appunto il classico gasolio. Allora, il concetto di base è che se tu con una macchina a gasolio mi vai a 30 km orari rischi di intasare il famoso FAP. Quindi chiaramente FAP, per chi non sa che cos'è, è il filtro antiparticolato, per cui ovviamente quell'elemento che ti permette appunto di non inquinare, solo che se tu vai a basse velocità, cioè il gasolio di solito è un tipo di carburante che da sempre storicamente si usa o nell'autotrazione, quindi nei mezzi pesanti, o diversamente per chi fa lunghe percorrenze, quindi certo, di solito l'autostrada. A tutte queste persone io suggerisco, cosa che avevamo detto in un'altra nostra pillola, di imparare a muoversi con intelligenza, cioè nel senso, esiste la macchina a gasolio, va benissimo magari se devo affrontare una gita fuori porta o devo andare a fare un viaggio. Però se il mio tragitto quotidiano è di 4 km e quei 4 km tra l'altro li devo fare a 30 all'ora, invece che usare il viale uso la pista ciclabile che è di fianco al viale, ci vado con la bicicletta, meglio se un e-bike o un monopattino, o una cargo bike se devo anche caricare i figli e portarli a scuola, e per assurdo io non ho zero pensieri sia a livello di limite di velocità, non inquino, faccio anche un'attività sana, certo, e al tempo stesso non ho l'incubo dei 30 km orari e risparmio i soldi del meccanico. Comunque noi siamo sempre pro green, nel senso che parlavamo di una situazione prettamente urbana, quindi in realtà per quanto venga a creare probabilmente un cambiamento importante, certo, nelle abitudini di chi si sposta soprattutto all'interno del centro storico. Questo in realtà è una buona notizia per un'attività come Gringo, che chiaramente lavora e vive della possibilità di proporre una mobilità intelligente e più pulita. Quindi in realtà noi siamo anche felici di questo cambiamento. Sì, come imprenditore sì, come bolognese ni, però no, nel senso, ribadisco, per quanto riguarda la mobilità in centro, assolutamente d'accordo. L'idea che mi capiterà anche a me di muovermi in macchina e potrei affrontare con meno leggerezza, tra virgolette, il percorso perché devo stare attento a fare i 30 che non sono abituato a fare, quello oggettivamente posso dire di sì. Vedremo come andrà, ci si abitua un po' a tutto, stiamo imparando che assolutamente è una... facciamo di tutto di più. La sopravvivenza in realtà è un fatto di parte che adattamento. Ci sono degli orari che secondo me fai anche meno dei 30, sì, per cui non sì, c'è sì, problema. Sì, no, quindi forse non sarà veramente un cambiamento così drastico. Vediamo. Comunque noi, come al solito, vi invitiamo a fare una visita a Federico, che, come vi potevate ben ricordare, ha un'ottima favella, ne sa tronchi di tutto ciò che riguarda la mobilità sostenibile green, nello specifico. E quindi noi vi ricordiamo che Gringo si trova in via Bellaria e che è un negozio, è un hub di mobilità, ma in realtà stavo sottolineando che è molto verde, cioè non puoi non vederla in tutta quella zona grigia, c'è proprio uno splash di verde, bellissimo. Esatto. E Federico vi aspetta lì. Vi aspettiamo. Ciao, grazie. Ciao a tutti.